Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e otto minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, la cronaca di questa giornata economico-finanziaria. Parleremo già in apertura di lavoro, di occupazione, perché oggi un rapporto, il rapporto annuale di Unioncamere, condotto su oltre 57.000 imprese, registra dei dati negativi sull'occupazione, ma non così negativi, e questa, visti i chiari di luna, va anche presa come una buona notizia. Un meno 2% dell'occupazione secondo le stime, che ripeto è un dato negativo ma non è un dato drammatico, sicuramente se confrontato con altri paesi. Poi avremo un approfondimento sulla decisione della Banca Centrale Europea, ampiamente attesa, taglio di un quarto di punto, minimo storico per i tassi di interesse, e anche di questo parleremo e faremo ascoltare come sempre anche il commento fatto, come avviene a inizio mese, dal Presidente della Banca Centrale Europea Jean-Claude Trichet, che il quale ha aggiunto: il livello dei tassi non è comunque al minimo possibile. Perché? Perché la crisi resta grave. Ancora avremo nella seconda parte del programma un approfondimento dedicato alla vicenda Fiat Opel, che si tinge di giallo secondo alcuni, secondo per esempio il quotidiano economico finanziario tedesco Handelsblatt. La Fiat avrebbe proposto al governo tedesco come piano per acquisire la Opel la chiusura di due stabilimenti in Italia, e da quello che si è capito uno al nord e uno al sud del paese, non si capisce se fosse termini merese oppure e nel nord si sono fatte varie ipotesi. Il punto fondamentale è che la Fiat non ha commentato queste indiscrezioni di Handelsblatt, ricordo che già due giorni fa erano uscite sul quotidiano popolare, ma in Germania da un lato Bild, ma anche e soprattutto sulla Frankfurter Allgemeine Zeitung, le ipotesi che la Fiat nel piano presentato al governo tedesco avrebbe chiuso 10 impianti, tra cui quelli italiani di Pomigliano e di Termini Imerese. Questa ipotesi era stata smentita ieri dal governo tedesco, aveva detto: non di questo abbiamo parlato. Nessun commento, dicevo, oggi sull'ipotesi che di nuovo avanza un giornale tedesco come Handelsblatt, però si è mosso il ministro dello sviluppo economico Scajola, che ha inviato una lettera al presidente della Fiat Montezemolo dicendo: la centralità delle fabbriche italiane nell'ambito dell'accordo tra Fiat e Chrysler e delle trattative con Opel è fondamentale, e Scajola ha anche preannunciato un incontro alla presenza anche dei sindacati per discutere delle prospettive di Fiat in Italia. Ancora i timori sono legittimi, ha detto il sindaco di Torino Sergio Chiamparino. Dalla Germania nel frattempo il presidente del Parlamento Europeo, che è tedesco e si chiama Hans-Gert Pöttering, ha detto: se c'è un contributo da parte italiana per salvaguardare i posti di lavoro in Germania, questo contributo è benvenuto. Domani Sergio Marchionne andrà in Germania e vedrà anche il governatore dello Stato tedesco dell'Assia, Roland Koch. Secondo, e concludo, il New York Times, General Motors punta ad almeno al 30% in Fiat nell'ambito poi della vendita delle attività sudamericane e europee al lingotto. General Motors, che oggi ha dato i dati sui primi tre mesi ed è un bagno di sangue: meno 6 miliardi per General Motors nei primi tre mesi dell'anno, un calo del giro d'affari del 47%, quindi ha chiuso con perdite per 6 miliardi di dollari e un giro d'affari che è crollato del 47%. Questo aggiungiamo anche la borsa: meno 1,3% l'S&P MIB, meno 1% il MIBTEL. Devo dire che la borsa in questo momento è quella che preoccupa di meno, visti i recuperi, il più 40%, il più 50% dai minimi del 9 marzo, e comunque è una borsa che ancora si mantiene in positivo da inizio anno. Addirittura il MIBTEL è un più 4%, l'S&P MIB un più 3%. Ultima cifra da inizio anno, ultima cifra, quella per i vostri sms: 349 238 6666. E tra i titoli allora segnaliamo Mediolanum, meno 4,85 Fiat, meno 4,7, scende a 7,5 euro, anzi meno 4,8 adesso è il peggior titolo Fiat, Ansaldo STS meno 4,4, Prismia, Nepirelli meno 4, 3,5 lo perde Mediaset, l'Automatica e Ubibanca, ma anche le CIR, il 2,90 il calo d'Intesa e il 2,80 quello di Buzzi Unicem, il 2,6 lo perdono sia Unicredit che Atlantia, il 2,5 sia Mondadori che Italcementi, ma anche la Popolare di Milano. Chiudiamo con Steamarco Electronics, A2A e Geox, ma anche Finmeccanica che perdono tutte il 2,2%. Si conferma invece il recupero per il Banco Popolare, più 5,8 e torna sopra i 6 euro per azione. Snam Rete Gas più 3,6, Tenaris più 2,1, Autogrill più 1,7, Terna più 1,5, Generali più 0,80 come Unipol. Euro a quota 1,34 nei confronti del dollaro. Altre notizie in breve, quindi al di là di Fiat, dei dati sull'occupazione e dei tassi della Banca Centrale Europea dei dati e tassi della Banca Centrale Europea, dicevo, stasera arriveranno a borsa americana chiuse i risultati degli stress test sulle banche americane, sulle 19 banche americane. A parte Citigroup, Bank of America, cauto ottimismo da parte del segretario al tesoro Timothy Geithner, che ha detto i risultati degli stress test saranno rassicuranti. Il Dow Jones comunque perde l'1,20 in questo momento, il Nasdaq il 2%, e il presidente della Banca Centrale Americana Ben Bernanke ha invitato le banche americane a rivedere le pratiche sui compensi ai manager e anche sulle assunzioni di rischio. Poi c'è un dato buono dall'America che riguarda Walmart, no? Si dice spesso che esistono due Americhe, quella di Wall Street e quella di Walmart. Ebbene, Walmart è la grandissima catena della grande distribuzione americana. Se l'America di Wall Street va male, va malissimo, quella di Walmart va decisamente meglio. Più 5% il dato sulle vendite ad aprile, quindi per quella che è la maggior catena al mondo di commercio al dettaglio, un dato superiore a ogni attesa. E poi le richieste di sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti sono calate la settimana scorsa, sono scese 600.000 unità contro attese di 635.000. Alcune notizie che riguardano l'Italia e nel caso specifico l'indagine e l'inchiesta della Guardia di Finanza, che ha scoperto oltre 5.000 imprese dell'edilizia che negli ultimi 3 anni hanno eseguito lavori di ristrutturazione senza dichiarare un euro di reddito. 5.246 evasori totali tra le ditte dell'edilizia. Questo nell'ambito del progetto Pandora, operazione avviata nel 2006 sulle ristrutturazioni, per le quali sono state richieste sgravi fiscali, e operazione è stata sviluppata dal nucleo speciale Entrata delle Fiamme Gialle. In pratica la Guardia di Finanza ha scoperto quasi 3 miliardi di euro di redditi non dichiarati. I controlli sono stati possibili proprio partendo dai contribuenti che avevano chiesto gli sgravi fiscali per le ristrutturazioni. Praticamente le ditte cosa facevano? Emettevano fatture perché i proprietari le chiedevano, e quindi dovevano farlo per poi avere le agevolazioni fiscali. Andando a incrociare i dati, in sede di dichiarazione le stesse ditte che avevano messo la fattura non risultavano avere un euro di reddito. Questo è un esempio di come, lo dico io, non lo dice la Guardia di Finanza, di come se si cercasse quel conflitto di interessi, quel contrasto di interessi tra cittadino che deve pagare un servizio o un lavoro e fattura, forse si riuscirebbe anche a scovare qualche evasione in più, perché in questo caso i cittadini erano i primi a richiedere la fattura perché gli serviva per scaricare fiscalmente il 35% dell'IRPEF come ristrutturazioni. E poi 10.000 lavoratori in nero, anche questo scoperto dall'indagine della Guardia di Finanza nelle società dell'edilizia. Infine, molti di voi ci chiedono sui fondi per la ricostruzione del terremoto, visto che abbiamo avuto la puntata che ricordava la tragedia di un mese fa. Per ora, degli 8 miliardi promessi, sono stati stanziati con decreto 5 miliardi e 800 milioni. Il problema è che sono spalmati in un periodo che va dal 2009 al 2032. Le cifre effettivamente a disposizione, lo dico perché abbiamo ricevuto molte email su questo, le cifre effettivamente a disposizione per quest'anno sono 1 miliardo e 100 milioni. Di questo 1 miliardo e 100 milioni finora sono stati trovati solo 500 milioni di copertura, che dovranno arrivare da nuove lotterie, nuove modalità del gioco all'otto e nuove forme di scommesse. Altri fondi tra i 2 e i 4 miliardi verranno attinti nei prossimi anni dal fondo aree sottoutilizzate, però stiamo sempre ragionando di ipotesi. Per ora sono 500 milioni su 1 miliardo e 100 di quest'anno. E questa era l'ultima delle nostre notizie in breve. Come vi dicevo, adesso ci occupiamo di un tema e di un insieme di temi, ossia l'occupazione e il numero di disoccupati, partendo anche da un dato così negativo. Ma diciamo, ci occupiamo di occupazione, di posti di lavoro in maniera molto molto aperta. È arrivata la bufera, è arrivato il temporale, sta bene chi sta male e chi sta come gli par. Beh, la bufera era arrivata ed è comunque in corso sui mercati, adesso meno finanziari, più sull'economia in generale, ma come cantava Renato Rascel, c'è poi chi sta come gli va, o meglio, c'è chi sta meglio di quanto non sembri. Perché lo diciamo? Perché oggi, da un lato, siamo tutti invidiosi per Ben Southall. Chi è Ben Southall? È un inglese, si è aggiudicato, lo avete letto oggi su alcuni giornali, il lavoro più bello del mondo. Per 6 mesi sarà infatti il custode di un'isola tropicale australiana, ricevendo un compenso per fare il custode di un'isola che uno vorrebbe avere come meta delle vacanze di $110,000. E fin qua tutto bene. La cosa che a noi ha fatto impressione, obiettivamente, adesso parleremo del mercato del lavoro anche in maniera più seria, è che questo inglese ha vinto un concorso creato dall'ente del turismo australiano, cui hanno partecipato 35.000 candidati di 200 paesi. Voglio dire, un concorso del genere, ve lo immaginate in Italia messo in palio dall'ente del turismo italiano e soprattutto se se lo sarebbe mai aggiudicato uno straniero? Ma è arrivata la bufera, è arrivato il temporale, chi sta bene, chi sta male e chi sta come gli par. E adesso la parte più seria, come dicevamo, e cioè il mercato del lavoro in Italia. Le indicazioni che arrivano sono indicazioni abbastanza positive o comunque non negative. Perché? Perché da un lato l'INPS fa sapere che la cassa integrazione ad aprile è aumentata di tantissimo rispetto ad aprile del 2008, più 864%, più 27% rispetto a marzo come cassa integrazione ordinaria, però fa anche sapere sempre l'INPS che ci sono meno di 300.000 richieste di disoccupazione nel mese di aprile, di sussidi di disoccupazione, mentre a marzo erano state un picco 375.000. Nei primi 4 mesi sono comunque 1 milione le richieste di sussidi di disoccupazione e praticamente il 38% in più rispetto allo stesso periodo e quindi ai primi 4 mesi del 2008. È arrivata la bufera, è arrivato il temporale. E questa è una prima notizia abbastanza positiva. Ancora più positiva invece è il rapporto, come ogni anno, che fanno le Camere di Commercio riunite in Union Camere con il sistema informativo Excelsior, ossia 57.000 imprese monitorate. Abbiamo scoperto oggi che c'è un problema di occupazione, ma non c'è un dramma sull'occupazione, nel senso che l'occupazione è calata, ma non crollata, e nel 2009 alla fine nel settore privato il calo dovrebbe essere tutto sommato, certo che sono, che è sempre un calo doloroso, del 2%, ossia 220.000 unità in meno. Siamo in collegamento con il presidente di Unioncamere, Andrea Mondello, buonasera. Ve lo aspettavate? Abbastanza, nel senso che innanzitutto io giudicherei questi dati preoccupanti ma non allarmanti, cioè indubbiamente si vede un andamento negativo. Ricordo che il dato che lei ha giustamente citato fa riferimento al settore privato, quindi voglio dire, è solamente una parte dei potenziali lavoratori in meno. Però certamente vediamo che le imprese vedono la luce in fondo al tunnel, seppur il tunnel è lontano, che possiamo parlare di congiuntura negativa, ma non userei la terminologia crisi che dà un'idea di irrecuperabilità del problema. Vediamo, perché noi è la prima volta che presentiamo insieme i dati sull'occupazione, i dati sull'andamento delle imprese, vediamo che anche sui dati delle imprese 0,5% di imprese in meno rispetto al trimestre precedente e praticamente lo stesso dato per quello che dato inalterato per quello che riguarda i fallimenti, fa vedere che il tessuto imprenditoriale del paese tiene nonostante la congiuntura sfortunata e negativa. Questo come dato complessivo, perché insomma un meno 2 rispetto ad altri paesi è sempre doloroso, avere 220.000 posti di lavoro in meno nel settore privato, però è doloroso ma non, diciamo, così doloroso come in altri paesi, lo dico perché penso alla Spagna, all'Irlanda, alla Gran Bretagna. Detto questo, però il rapporto è in chiaro scuro, non è solo in chiaro, sennò avremmo già avuto il Gallo e non Renato Raschel. Perché? Perché voi notate comunque che vi sono poche assunzioni come dato qualificante del 2009, ma soprattutto crolleranno i contratti a tempo determinato, che spesso erano una forma di, una prima forma di non precariato, di assunzione più strutturata, meno 50%, se ho ben capito. Ma vede, questo secondo me era un dato più prevedibile. Premesso che noi lavoriamo su previsioni, quindi le previsioni tengono conto di un dato aleatorio che in qualche maniera non può non essere caratterizzante i nostri ragionamenti. Però quello che noi vediamo è che ci sono dei dati pessimistici, però vediamo per esempio un upgrading qualitativo delle persone che vengono assunte, aumentano i laureati, che salgono praticamente a 1 su 8 dei nuovi assunti, salgono del 3% i diplomati che arrivano al 43% degli assunti. Quindi noi vediamo che le imprese, questo è un dato interessante che invece abbiamo pubblicato recentemente in uno studio sulle piccole e medie imprese con Mediobanca, che il 48% delle imprese prevedono di investire in ricerca e innovazione, le piccole imprese prevedono di investire in ricerca e innovazione nel 2009. Ecco, sono tutta una serie di dati che fa vedere come il tessuto imprenditoriale ha una forte tenuta. Quindi per quello che riguarda l'occupazione vuol dire preoccupazione ma non allarme. Ecco, questo sarebbe il messaggio forte che io mi sentirei di mandare. Quindi, ripeto, sì, non è un fatto di ottimismo che guardiamo il futuro o vogliamo guardare il futuro con più serenità di quello che non sia, sono quello che vedono le imprese. Le imprese vedono un futuro in maniera ragionevolmente preoccupati, ma continuano a investire in ricerca e innovazione, le piccole imprese continuano a lavorare forte con l'internazionalizzazione, è probabile che la capacità delle imprese di internazionalizzarsi aumenterà di circa il 3,5% in quest'anno e questo è un ulteriore segnale fortemente positivo. Insomma, ci sono tutta una serie di segnali che ci fanno guardare il futuro in maniera positiva e poi ci fa essere orgogliosa di questo tessuto della piccola impresa che viene spesso citata a sproposito. Le piccole imprese hanno una forte tenuta, hanno una grande capacità di ricerca e innovazione, è secondo me il fiore all'occhiello di questo paese in questo momento. Allora, lei ricordava che c'è anche, già diciamo noi, qualche notizia positiva, oltre al dato complessivo. In effetti, all'interno di un'occupazione in calo, ripeto, meno 220.000 secondo le vostre stime, viene fatto notare come aumenti addirittura la richiesta di operai specializzati, di tecnici e comunque dipendenti ad alta specializzazione dal 17 al 22%, e degli impiegati, ma anche delle professioni commerciali, che stando appunto alla vostra inchiesta su 57.000 imprese dovrebbero crescere dal 31 al 35%. E invece, lì sono dolori, cali molto forti, addirittura il 45% tra gli operai generici e tra le professioni non qualificate, meno 40%. Come se lo spiega, Presidente Mondello? Ma ve lo spiego conformemente a un po' quello che dicevamo prima, no? Lei ed io, cioè che nei momenti congiunturali meno positivi le piccole imprese, piccole e medie imprese, cosa fanno? Cercano di qualificare il prodotto che fanno, cercano di assumere in maniera meno indiscriminata e quindi tendono a puntare alle persone con le professionalità più qualificate e, devo dire, tendono soprattutto a prepararsi alla ripresa, no? E allora questo, guardando il futuro prossimo, cosa si pensa? Si pensa di avere un mercato globale, un mercato internazionalizzato più in ripresa, in forte ripresa, e quindi ci si prepara a questo. Allora è normale che si cerchino le professionalità più qualificate, si cerchino, come dire, laureati, diplomati, operai specializzati, perché evidentemente si cerca di mirare a un prodotti qualitativamente più, a tassi più elevati di ricerca e innovazione, quindi più competitive sui mercati internazionali. Uno dei problemi straordinari, una delle grandi opportunità di questo paese è che, in maniera completamente differente da quello che si credeva fino a poco tempo fa, la piccola impresa ha la capacità, quando opera in rete, di operare sui mercati internazionali. Un tempo si pensava solamente le grandi imprese ce la possono fare sui mercati internazionali. Non è vero. Le piccole imprese hanno una grande tenuta, hanno un grande orgoglio, hanno la capacità di andare sui mercati internazionali. Questo ovviamente non ci toglie, come dire, l'orgoglio del periodo di sentire che la Fiat va a fare shopping. No, ma sono d'accordo con lei. Citavamo in qualche giorno fa la filiera del mobile, data molte volte per spacciata, e invece si va dal piccolo brianzolo, classicamente, che produce mobili, in una filiera, in un sistema, in una rete, in una piattaforma, fino al Salone del Mobile di Milano, che è diventata la vetrina più importante e l'evento più importante per l'intera città di Milano e anche quindi per parte del paese. Ecco, quindi si riesce a tenere assieme le due cose quando si fa rete, quando si fa, diciamo, piattaforma. Ultima domanda per lei, e qui invece sono solo dolori, non c'è nessun lato positivo: il divario anche occupazionale con il Sud è aumentato, secondo sempre la vostra ricerca. Guardi, questo è personalmente un dolore, ma credo che deve essere la preoccupazione per tutti i cittadini, ma soprattutto deve essere la priorità per il governo. Il gap tra il nord e il sud tende ad aumentare, e se tende ad aumentare nel 2009, che è stato un anno di congiuntura, che sarà un anno di congiuntura negativa, dovrebbe tendere ad ampliarsi questo divario nel 2010, che dovrebbe essere un anno migliore, perché le imprese del meridione, come purtroppo ho detto negli altri anni che presentavo questi studi, hanno una minor capacità di rete, hanno una minor capacità di innovazione, hanno una minor capacità di essere competitiva sui mercati internazionali. Allora c'è bisogno, io credo, tutti quanti di ripartire dal sud, che ha delle straordinarie potenzialità, che ha delle persone anche di alto ed elevatissimo livello qualitativo, di intelligenza e di livello formativo, ma c'è bisogno di puntare molto fortemente su questo meridione, dandogli le infrastrutture, dandogli tutte le potenzialità per competere. Le imprese del meridione, che devono essere in qualche maniera aiutate, non hanno bisogno di aiuti, hanno bisogno di essere messi nelle condizioni di competere uguali delle imprese del resto del territorio. E allora non possiamo pensare che le imprese del meridione, che partono da una situazione oggettiva infrastrutturale di svantaggio, possono recuperare questo svantaggio. bisogna metterle in condizione di operare nelle stesse condizioni come operano le grandi imprese, le medie imprese del nord. D'accordissimo con lei, bisogna anche che le amministrazioni locali, regionali, provinciali del meridione si decidano assieme alle imprese a cercare di utilizzare anche i soldi europei che spesso non vengono utilizzati, cioè questo non diamo sempre solo la colpa alle infrastrutture, perché io sono d'accordissimo, tutti vogliamo il completamento della Salerno-Reggio Calabria, se poi però non hai idee e non usi i soldi puoi averne anche 18 di corsie, ma te ne fai gran poco, fermo restando che se non hai le corsie però hai le idee e ti mancano i veicoli infrastrutturali dove farle circolare. Grazie al presidente grazie di Union Camere Andrea grazie Mondello, grazie per gli stimoli soprattutto. Grazie presidente. È arrivata la bufera, è arrivato il temporale, sta bene chi sta male e chi sta come chi par. E dopo le informazioni meteo e la pubblicità sentiremo anche che cosa pensa della crisi il presidente della Banca Centrale Europea, Jean-Claude Trichet. I tassi, lo ricordavamo prima, sono stati tagliati, ma il lungimirante Trichet, colui il quale meno di un anno fa i tassi rialzò, adesso dice che la fine della crisi è ancora lunga, è ancora di là da venire. minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Berisoni. Allora, alcune sms arrivati sul primo tema, i dati e le stime diffuse oggi da Unioncamere e quindi tutte le camere di commercio italiane sull'occupazione. Allora, alcuni di voi dicono, ma dove? Qui nel nord, nel nord-est, non è vero nemmeno che si cerchi persone qualificate, si taglia sui costi, su chi costa di più. Noi riportiamo quello che è il sondaggio e la ricerca, scusatemi, Excelsior su 57.000 imprese. Altro ragionamento che a mio avviso ha più di un di una logica è dire sì, attenzione, però il sud, oltre che essere evaporato, essersi perso il lavoro ufficiale, sarebbe interessante capire anche quanto lavoro nero è venuto meno. Purtroppo, essendo nero, non lo sapremo mai, e questo è il problema del sommerso, assieme ad altri problemi chiaramente in primo luogo di evasione fiscale. Dal rapporto della Guardia di Finanza confermo, scovate 3.000 imprese dell'edilizia che erano completamente in nero, cioè non dichiaravano nulla, e il metodo con cui la Guardia di Finanza le ha trovate, sto facendo una verifica incrociata con le fatture emesse perché richieste dai proprietari di casa in fase di ristrutturazione per poter poi accedere alle agevolazioni fiscali, 5.246 evasori totali tra le ditte dell'edilizia negli ultimi tre anni, quelli scoperti dalla Guardia di Finanza. Ancora una notizia appena battuta dalle agenzie, è abbastanza carina perché in America non si placa la polemica, ma anche corretta a mio avviso, nei confronti degli sprechi delle grandi banche o delle grandi imprese. Perché? Perché oggi General Motors, che come ricordavamo ha pubblicato una trimestrale devastante, nel senso che ha avuto un meno 47% nel fatturato e ha solo nei primi tre mesi dell'anno registrato perdite per 3 miliardi di dollari, ebbene General Motors ha organizzato nel frattempo una super festa in un esclusivo hotel dell'Arizona dove ha invitato 500 grossi clienti, lo scrive oggi USA Today, che è il più diffuso giornale in America, ricordando che proprio GM negli ultimi mesi ha avuto prestiti pubblici, quindi denari degli americani, per oltre 15 miliardi di dollari. Stanno montando le polemiche in America, visto che General Motors avrebbe pagato viaggio e alloggio per il 90% degli ospiti del Sheraton Wild Horse Pass Resort and Spa, uno dei migliori alberghi dell'area. E anche qui mi fanno impazzire le spiegazioni dei portavoce, perché Terry Radigan ha spiegato che l'evento era stato preventivato prima della crisi e che gli ospiti però, quando hanno voluto giocare a golf, hanno dovuto pagare di tasca propria. Allora, era un evento preventivato prima e quindi qualunque cosa dovesse succedere e fosse mai successa si sarebbe tenuto, e comunque la green fee l'hanno pagata di loro spese, almeno quella. Adesso però dagli sprechi o dal mondo in cui vivono certi manager al mondo in cui vive la Banca Centrale Europea, che oggi ha ridotto i tassi di interesse di un altro quarto di punto. Eh sì, li ha tagliati di 25 punti base, come si dice con un linguaggio un po' tecnico. Il costo del denaro a questo punto in Europa, nell'area euro, è all'1%. È il settimo taglio consecutivo dallo scorso ottobre, quando i tassi, ricordo, solo ad ottobre erano al 4,25%. E siamo così anche ad un nuovo minimo storico da quando la Banca Centrale Europea ha iniziato a gestire la politica monetaria, ossia dal 1999. Resta ancora una differenza considerevole tra, visti i tempi, tra quanto costa e quindi rende il denaro in Europa e quanto rende in America. In America è a zero, quindi una differenza intorno all'1%. Tassi invariati invece per la Banca d'Inghilterra, che li mantiene comunque al minimo storico allo 0,5%, e quello che ci ha lasciato forse più impressionati, e non è tanto la riduzione del costo del denaro, ma il commento che ha fatto Trichet, numero uno della Banca Centrale Europea, a questa decisione. Ha detto Trichet: la crisi resta grave, i tassi per ora sono appropriati, ma non sono al minimo possibile. On the basis of its regular economic and monetary analysis, sulla base delle abituali analisi economiche e monetarie, abbiamo deciso di ridurre i tassi di interesse di ulteriori 25 punti, portandoli all'1%. Consideriamo che i tassi siano appropriati alla luce di tutte le informazioni disponibili. Oggi non abbiamo deciso che l'attuale livello del costo del denaro è il minimo possibile e che non potremo mai superare questa soglia. Allo stesso tempo, posso affermare che attualmente consideriamo appropriati i tassi di interesse, sempre tenendo conto delle informazioni e delle analisi a nostra disposizione. E adesso, a grande richiesta, mentre saluto Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore da Francoforte, vi faccio ascoltare, perché ce lo chiedete ogni volta, cosa disse Trichet a luglio del 2008, nemmeno un anno fa, 9 mesi fa. We decided at today's meeting to increase the key ECB interest rates by 25 basis. Alla riunione odierna abbiamo deciso di alzare i tassi di interesse di 25 punti base. La decisione è stata presa per prevenire effetti di second round sui prezzi e per contrastare i rischi al rialzo per l'inflazione nel medio periodo. L'inflazione ha continuato a crescere in modo significativo dallo scorso autunno e ci aspettiamo che i prezzi al consumo rimarranno alti per un periodo più lungo di quanto avevamo previsto. I fondamentali dell'economia della zona euro restano solidi, ma continuano a esserci rischi al ribasso. Penso che in questo momento non ci sia nessuno che dica che ci sono episodi di stagflazione a livello globale. Penso che stiamo assistendo ad un momento in cui l'economia globale sta dimostrando di tenere. Pazzesco, eh? Nemmeno un anno fa l'economia globale tiene, il problema è l'inflazione, come per Johnny Stecchino il problema di Palermo era il traffico, e poi bisognava tenere sui tassi. Vabbè, Beda Romano, siamo stati un po' cattivi con Trichet, però insomma ce lo chiedevano anche gli ascoltatori, mettiamola così. Beda Romano, perché Trichet ci ha tenuto a ricordare che la crisi resta grave e che i tassi comunque non sono al minimo possibile, né ridurre di un quarto di punto il costo del denaro oggi in Europa portandolo all'1%? Ma la BCE ha spiegato che di non avere deciso che il livello dell'1% è il livello più basso. In altre parole, la BCE ha voluto un po' tagliare l'erba sotto ai piedi al dibattito sul pavimento dei tassi di interesse. Non ha voluto, in altre parole, che si continuasse il dibattito se 1% è il livello più basso o meno, e credo che lo abbia fatto perché quell'argomento era deleterio dal suo punto di vista, La BCE oggi ha fatto capire che per il momento l'1% dovrebbe rimanere il livello più basso, ma siccome la situazione è estremamente incerta e non si possono escludere colpi di scena negativi, ha voluto non tanto aprire la porta a un nuovo ribasso del costo del denaro, quanto mantenere le mani libere, in altre parole, permettersi in futuro, se necessario, un nuovo ribasso del costo del denaro. Non voleva dare al mercato in questo momento il messaggio, un messaggio del tipo l'1% è il minimo assoluto. Questo però non vuol dire che dovrà ridurre il costo del denaro sotto all'1%. Tendenzialmente la banca spera di non doverlo fare. Poi c'è un'altra operazione, un altro aspetto dell'incontro di oggi del board, del comitato della Banca Centrale Europea, perché se da un lato Trichet oggi insomma era abbastanza negativo, le nuove stime economiche peggioreranno decisamente, si è riferito alle nuove previsioni che la Banca Centrale diffonderà a giugno, dall'altro però ha anche ricordato che nei primi tre mesi del 2009 per l'area euro è stato un periodo molto peggiore delle previsioni, ma adesso dovrebbe essere alle spalle e il secondo trimestre sarà molto meno negativo. Anche qui un po' un colpo al cerchio, un colpo alla botte. E poi l'aspetto dell'acquisto dei cover bond e degli investimenti di cui la Banca Centrale Europea si farà da controparte e riacquisterà fino a 60 miliardi di euro di debito. The Governing Council has decided in principle. Il Consiglio Direttivo ha deciso che si procederà con l'acquisto di covered bond emessi nell'area euro. I dettagli riguardo la modalità saranno diffusi dopo la prossima riunione a giugno. Inoltre, abbiamo deciso che la Banca Europea degli Investimenti diventerà la controparte nelle operazioni di rifinanziamento della Banca Centrale Europea. Dal prossimo 8 luglio avrà accesso alle operazioni di rifinanziamento come le banche commerciali. In merito alla decisione di riacquistare covered bond, ripeto che i dettagli verranno forniti in occasione della prossima riunione a giugno. Posso però affermare che pensiamo di riacquistare debito per un ammontare intorno ai 60 miliardi di euro. Beda Romano, che cosa significa in soldoni questa operazione? Beh, questa operazione è estremamente interessante perché dopo alcuni mesi di grande discussione all'interno del Consiglio Direttivo, la BCE ha deciso di seguire in modo meno drammatico, in modo meno ampio, la strategia già seguita da tempo dalla Federal Reserve negli Stati Uniti e dalla Banca d'Inghilterra in Gran Bretagna. Acquisto di obbligazioni sul mercato nel tentativo di aiutare sia le società che l'economia reale. Mi spiego meglio. Il tentativo è quello di permettere alle società finanziarie e non finanziarie di ricevere denaro dalla banca centrale in cambio di obbligazioni e in questo modo permettere a queste società di riutilizzare questo denaro nell'economia reale. Il tentativo è doppio. Il tentativo è quello di aiutare il mercato finanziario che in alcuni punti è in grave difficoltà e in secondo luogo indurre le società e le banche a utilizzare questo denaro per nuovi investimenti o per nuovi prestiti nell'economia reale. Quindi la banca lo chiama allentamento creditizio, lo si potrebbe anche chiamare allentamento quantitativo, è fondamentalmente un aumento di liquidità sul mercato per aiutare l'economia. Andando a garantire e comprare queste obbligazioni. Grazie a Beda Romano per quello che riguarda l'analisi della decisione della Banca Centrale Europea di oggi, che comunque ha avuto una conseguenza anche sulla borsa. Eh sì, perché le borse sono peggiorate dopo il taglio dei tassi, le parole di Trichet, e hanno chiuso in negativo, meno 1,4% l'S&P MIB, meno 1,1% il MIBTEL, meno 1,6 Francoforte, scusate, meno 1% Parigi. Londra, la migliore, chiude invariata. L'America adesso perde lo 0,7% sul Dow Jones. Nasdaq, meno 1,7%. Bene alcuni titoli, soprattutto il Banco Popolare, che torna con un rialzo del 6% sopra i 6 euro per azione, 6,20 euro. Unipol, più 3,4%, torna anch'essa sopra un livello che non vedeva da tempo, ossia 1 euro per azione. Tenaris, più 3,1, Snam più 2,8, Terna più 2, Autogrill più 1,80, le generali più 1%, male Fiat meno 5,20, Mediolanum meno 4,90, Prismia meno 4,80, Ansaldo meno 4,6, CIR meno 4,2, Ubibanca meno 4%, come l'automatica, il 3,9 lo perde Pirelli, il 3,7 media, il 3,5 la Popolare di Milano, Italcementi meno 3,3 come Unicredito. Euro a quota 1,34, Andrea Fontana, Radio Colle sulle 24 ore, buonasera. Buonasera. Realizzi o cambio di rotta? Ma a sentire gli operatori, soprattutto i realizzi, e in particolare l'apertura di Wall Street, che ha un po', diciamo così, sbattuto contro la quota di 8.600 punti per quanto riguarda il Dow Jones, si è avvicinata molto e poi dopo ha iniziato a scendere, e se guardiamo i titoli che sono stati colpiti, in particolare a Piazza Affari più colpiti, Fiat, Prismian, Ansaldo, CIR, sono titoli che nell'ultimo mese e in particolare nell'ultima settimana avevano messo a segno per motivi diversi delle buone performance. Il mercato ha sicuramente cambiato umore, come dicevi, dopo le parole di Trichet, ma diciamo che almeno per la seduta di oggi e per quanto dicono gli operatori, il cambiamento, cioè le indicazioni da Francoforte sono stati indicatori per appunto andare a correggere e a prendere beneficio laddove invece si era saputo un po' recuperare nelle ultime sedute. Sì, devo dare anche una risposta al 349-238-6666. Giustamente chiedete, ma perché si abbassa, perché l'abbassamento dei tassi dovrebbe essere una brutta notizia per i mercati? Allora, dipende perché i tassi vengono abbassati. In questo momento vedere che la Banca Centrale Europea abbassa di un altro quarto di punto il costo del denaro, che è un'operazione che si fa per aiutare l'economia, perché il denaro meno caro vuol dire più facile averlo in prestito, viene letta dal mercato come una preoccupazione che resta forte della Banca Centrale Europea, altrimenti non l'avrebbe mai abbassato, anche perché prima o poi questi tassi dovranno tornare a crescere per non generare rischio inflazione. Minuti. Allora, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per la seconda parte di Focus Economia. Dopo aver parlato dei dati sulla disoccupazione, ripeto, negativi ma meno brutti delle attese, quelli diffusi oggi da Unioncamere, e aver commentato la decisione della Banca Centrale Europea che ha ridotto di un altro quarto di punto il costo del denaro, stavamo chiudendo l'approfondimento sulla borsa e quindi non solo vicenda Fiat ma anche i titoli che hanno guadagnato. Alcuni di voi dicono: ma state facendo disinformazione, la borsa ha girato dopo Wall Street. Beh, mica tanto, perché Trichet ha parlato verso le 14.15, 14.30, e la borsa è iniziata a girare esattamente alle 14.39, grafico alla mano. Poi ha preso un'altra discesa dopo l'apertura di Wall Street, questo è assolutamente corretto. Comunque, Andrea Fontana, dicevamo, non solo Fiat meno 5,20, Mediolanum meno 4,90, Prismia meno 4,80, di nuovo molto forte il Banco Popolare, più 6%. Sì, il Banco Popolare, che gli operatori segnalavano nelle ultime sedute con diciamo così molto, un titolo molto scoperto, su cui le banche di investimento erano molto scoperte, si è negli negli ultimi giorni qualcuno ha preso posizione anche esplicitamente segnalando, quindi alzando i vari target o i giudizi sul titolo. Ieri è arrivato l'ok della Banca d'Italia all'acquisizione di Banca Italise, che porterà quindi fuori dal listino milanese l'istituto di leasing, appunto, di cui il Banco Popolare è il primo azionista. Su tutte queste cose sono proseguiti gli acquisti, sono arrivati, hanno permesso al titolo di guadagnare anche oltre il 10%, e anche con l'inversione di tendenza del pomeriggio il titolo ha saputo resistere, peraltro tra i finanziari insieme a Unipol e insieme alle generali, mentre gli altri sono andati tutti in rosso. Oltre a Fiat, anche Ansaldo STS ha preso oggi una bella sberla, meno 4,6 e 11,7 euro per azione. Sì, Ansaldo era uno di quei titoli che nell'ultimo mese si erano messe in luce, anche CIR, per esempio, che avevamo visto molto brillante dopo la trimestrale di giovedì scorso, è stata la peggiore, tra le peggiori, e allargando lo sguardo a tutto il listino, nella galassia dei Benedetti la peggiore del listino milanese è stata Cofide, che ha perso l'8,6%, che è appunto la holding che controlla il pacchetto di maggioranza in CIR. Per inciso, Tiscali oggi? Tiscali ha vissuto una mattinata molto, molto brillante sulla scia delle indiscrezioni riportate dai Financial Times, secondo cui Carphone sarebbe pronta a sborsare 250 milioni di sterline per le attività britanniche di Tiscali, per il quale è appunto in corso una trattativa di cessione. E poi hanno, con il malumore dei mercati nel pomeriggio, hanno finito per prevalere le vendite e il titolo ha perso il 4%. Tra i migliori, Cell Therapeutics più 54,9%, Viaggio del Ventaglio più 22%, Risanamento più 17%, Bialetti più 16%, Fortis più 15%, Ciccolella più 13% e CHL più 11%. Il peggior titolo in assoluto, Societe Generale meno 9,6%, Cofide meno 8,7, Acea meno 7,6, E.ON meno 7,6 anch'essa, Indesit Company meno 6,6%. Grazie Andrea Fontana, Radio Corriere Sole 24 Ore. Sempre in tema di tassi di interesse, molti messaggi che sono arrivati al 349-238-6666, sostanzialmente il comune denominatore è il seguente: la BCE può abbassare i tassi quanto vuole, ma finché poi questo non si trasferisce ai tassi che vengono praticati dalle banche, alle imprese e ai privati cittadini, a noi poco cambia. Cerco di sintetizzare. Poco fa a Roma, di tassi e interessi, in un convegno organizzato alla LUIS, che vedeva la presenza anche del premio Nobel Stiglitz, dicevo, di tassi e interessi e di Banca Centrale Europea ha parlato Jean-Paul Fitoussi, molto scettico. Dice: tanto ormai i tagli non servono più, la BCE arriva come sempre in ritardo. Sentiamo. Sempre un po' troppo tardi, lo fa quando non serve più a nulla, perché siamo in un momento dove c'è una trappa di liquidità, e voglio dire che anche se si abbassa il tasso di interesse non morde sull'attività. Bisogna adesso, il solo strumento efficace è la politica fiscale. Il pericolo di deflazione è più grande che quello di inflazione. Quindi deflazione più grande come pericolo di quello di inflazione, secondo Fitoussi, e staremo a vedere, perché appunto la Banca Centrale Europea si è aperta ogni possibilità dicendo che non è il livello più basso possibile. Ultimo tema di questa puntata, la vicenda Fiat Opel. Dopo che ieri in serata abbiamo scoperto che Sergio Marchionne sarà anche amministratore delegato della Chrysler, dicevo, si tinge di giallo perché la stampa tedesca è tornata a ipotizzare, e oggi lo ha fatto Handelsblatt, il quotidiano economico finanziario tedesco, dicevo, è tornata a ipotizzare che nel piano proposto da Fiat al governo tedesco vi sia o siano presenti anche due chiusure di stabilimenti in Italia, una nel nord e l'altra nel sud. La Fiat non ha commentato le indiscrezioni. Dopo le informazioni per chi è in viaggio cercheremo di capirne di più, anche perché su questo è comunque intervenuto il ministro dello sviluppo economico Claudio Scajola, che in una lettera al presidente della Fiat Montezemolo e all'amministratore delegato Sergio Marchionne ha ribadito la centralità delle fabbriche italiane nell'ambito dell'accordo tra Fiat e Chrysler e delle trattative per la Opel, sostenendo che questa centralità è fondamentale. Scajola ha anche preannunciato un incontro alla presenza anche dei sindacati per discutere, l'incontro con i vertici Fiat, per discutere le prospettive di Fiat in Italia. Nuova in diretta alle 18:17 minuti per l'ultima parte di Focus Economia. Diciamo quindi delle nuove ipotesi della stampa tedesca che, diciamo, l'accordo o la proposta fatta da Fiat per rilevare la Opel prevede anche la chiusura di alcuni impianti italiani. Secondo appunto le indiscrezioni, addirittura si fanno i nomi, questa volta però le aveva fatti, se non ricordo male, Frankfurt Allgemeine Zeitung, di Pomigliano d'Arco e Termini Imerese. Molte così indiscrezioni, voci, nessun commento da parte della Fiat. E interessante, mentre saluto e ringrazio per averci raggiunto in collegamento Andrea Malan del Sole 24 Ore, buonasera Andrea. Buonasera a te e a tutti gli ascoltatori. Interessante, dicevo, il fatto che il segretario generale della FIOM di Torino, Giorgio Airaudo, intervistato dal nostro Paolo Piacenza, su questa ipotesi getti sostanzialmente acqua sul fuoco. Io trovo clamoroso, come si dice, che ci si agiti in Italia per indiscrezioni in Germania. Come trovo clamoroso che da due giorni circolino più piani in Germania di quello che noi non sappiamo in Italia. Quindi insomma è giunto il momento, tant'è che se ne è accorto anche il governo, che però si è mosso sulle indiscrezioni tedesche, per capirci, è giunto il momento che la Fiat venga chiamata alle sue responsabilità di fronte ai suoi lavoratori italiani e al paese. Quindi la Fiat ha la possibilità di chiarire, poi scopriremo, come si dice, quale piano è vero, quale non è vero, per capirci. Penso che poi in Italia il problema non sia uno o due stabilimenti. In Italia si producono 630.000 vetture, a Mirafiori per esempio 140.000 lo scorso anno, dati 2008 per capirci. Con 630.000 vetture in un'alleanza di 6 milioni di vetture l'Italia sarebbe il 10%, è chiaro? E 630.000 vetture no, quest'anno noi non le rifaremo, quindi c'è il problema di come incrementare la produzione in Italia all'uscita della crisi, con quali prodotti, e io non vedo alternative se non a un elemento di innovazione legato alla possibilità di produrre le piccole ibride in Italia, coi prodotti tradizionali, cioè noi abbiamo già troppo ridimensionato l'autoveicolo in Italia. Così appunto il segretario generale della FIOM Torino, Giorgio Airaudo. Allora, Andrea Malan, lo stesso Airaudo diceva, beh, insomma, non stiamo troppo a creare polveroni su indiscrezioni che escono in Germania con tutto quello che è la partita tedesca e anche politica su Opel di stabilimenti italiani. Detto questo, possiamo anche ricordare che al di là della vicenda Chrysler e Opel, comunque la Fiat aveva un progetto, un'ipotesi di ridurre la produzione di alcuni stabilimenti? Beh, diciamo che Marchionne va dicendo che c'è un eccesso di capacità produttiva da parecchi mesi, se non già dall'anno scorso. Possiamo ricordare che l'eccesso di capacità, non solo per Fiat, ma in tutta Europa, è preesistente alla crisi, cioè ancora prima della crisi, diciamo dell'autunno scorso, c'era comunque in Europa un eccesso di capacità che appunto, diciamo, era stato, diciamo, assorbito con misure temporanee piuttosto che con esportazioni finché appunto le vendite non sono crollate. Quindi il problema è preesistente. Viceversa, il problema è anche non necessariamente da risolvere subito, nel senso che credo che Marchionne abbia in mente una soluzione di medio periodo. In uno dei primi piani circolati sulla stampa tedesca si parlava di chiusure a partire dal 2011 fino al 2016, quindi in un orizzonte temporale molto lungo che permetterebbe di capire due cose: uno, come va l'integrazione con Opel e se c'è l'integrazione con Opel, perché non è ancora detto che l'operazione vada in porto; due, come va il mercato, cioè se il mercato europeo tornerà in tempi relativamente brevi a livelli tipo quelli del 2007, quindi preesistenti alla crisi, oppure si riassesterà su livelli più bassi. Questo ovviamente è fondamentale per definire quanta capacità produttiva serve. Poi è vero che in Italia c'è comunque un problema derivante anche dal fatto che in Italia non si fanno le piccole auto, cioè la 500 e la Panda, che sono quelle di maggior successo. L'unico modello di grande successo e grande diffusione è la Grande Punto, che sta andando molto bene grazie anche alle versioni a metano, ma che da sola non può sostenere un'intera produzione. Allora, questa è l'analisi industriale. Ti pongo un altro tema. Intanto rispondo però a alcuni ascoltatori che dicono: ma ancora date credito a Trichet, assumete posizioni più critiche. Abbiamo fatto sentire mezz'ora fa Trichet a luglio dire che il problema era l'inflazione e che la crescita economica era stabile. Insomma, più critici di così, cosa volete che facciamo a Trichet? Chiusa la parentesi, tu hai fatto un'analisi dal punto di vista industriale della produzione, ineccepibile. Temo che però, se va avanti, diciamo, la trattativa con Opel, il punto diventi più politico che puramente industriale. Mi spiego. Secondo te può rappresentare un ostacolo, uno scoglio, anche politico, il dire: noi compriamo Chrysler, siamo pronti a comprare Opel, e nel frattempo però, perché il messaggio poi che passerebbe sarebbe questo, nel frattempo dobbiamo ridurre la produzione in Italia? Cioè, non temi o non ritieni che diventerebbe politicamente insostenibile? Poi è già la posizione presa da Scajola oggi, la dice lunga? Beh, diciamo che sono politicamente insostenibili purtroppo diverse cose, nel senso che è altrettanto insostenibile che Marchionne vada dai tedeschi, compri la Opel senza esborso di cassa, anzi si faccia finanziare dal governo tedesco, e poi chiuda stabilimenti in Germania e non in Italia. È inimmaginabile. Quindi, se veramente Fiat vuole portare avanti questa operazione, e siccome entrambe le aziende, Opel da un lato e Fiat dall'altro, soffrono appunto di questo problema della sovracapacità, dovrà necessariamente, credo, esserci una riduzione appunto di capacità, sia essa con chiusura di stabilimenti oppure con riduzione all'interno dei singoli stabilimenti, però tenendoli aperti. Quindi è inevitabile che comunque Marchionne, se adesso vuole mandare in porto l'operazione, offra una soluzione di questo tipo. Tra l'altro è anche il motivo per cui, nonostante in effetti sembri abbastanza curioso, Marchionne ha messo più le carte in tavola con i tedeschi di quanto non abbia fatto con i sindacati italiani e con il governo, ma è semplicemente perché Marchionne ha bisogno da un lato dei fondi del governo tedesco e dall'altro del via libera dei sindacati della Opel, quindi necessariamente è andato a presentare loro un piano più chiaro di quello che abbia finora presentato in Italia. Andrea Malan, una cosa non ho mai capito in questa vicenda, ma le proposte alternative a Fiat su Opel, mi riferisco a quella austro-canadese della Magna più i russi della GATS, e poi altre proposte di fondi sovrani degli Emirati Arabi, se non ricordo male, ma queste proposte non prevedono chiusura di impianti in Germania? Cioè, loro riuscirebbero a risanare Opel senza avere bisogno di ridurre la capacità produttiva? No, per ora nessuno è uscito allo scoperto con piani dettagliati. Credo che sia impossibile risanare la Opel nelle condizioni in cui è senza ridurre la capacità produttiva. L'esempio dei conti del primo trimestre che sono stati annunciati oggi è abbastanza esemplare. Opel ha perso 2 miliardi di dollari, cioè GM Europa, che il cui grosso è rappresentato da Opel, ha perso 2 miliardi di dollari, quindi 1,5 miliardi di euro in un trimestre. È più di quanto perdeva la Fiat al massimo della sua crisi. Opel ha visto il fatturato praticamente dimezzato. E quindi è un'azienda che, se non interviene subito il governo tedesco e la dà un partner industriale con cui ottenere le sinergie, rischia molto seriamente la chiusura, come del resto la casa madre negli Stati Uniti. Sì, perché la casa madre, cioè la General Motors, ha perso quasi 3 miliardi di dollari nel primo trimestre, 2 miliardi e 98, con un meno 47% nel giro d'affari. Ci sta dicendo che di questi 2 miliardi e 98 di dollari di rosso, quasi 2 miliardi arrivano dalla parte europea? No, diciamo lì bisogna vedere, confesso che ho letto bene le cifre europee, che sono appunto 2 miliardi di rosso netto e 1,2 miliardi sempre in dollari di rosso operativo. Quindi bisogna vedere a che livello è calcolata la perdita. Comunque 1,2 miliardi di rosso operativo sono circa 900 milioni di euro, quasi 1 miliardo di perdita operativa, è comunque una cifra, è una cifra colossale, per cui Opel sicuramente non può andare avanti molto, a meno, ovviamente in questo periodo, in questo frangente, gioca molto anche l'effetto psicologico, come ha giocato negli Stati Uniti, cioè il consumatore che si chiede se acquistare una Opel o meno, se l'azienda rischia il fallimento, chiaramente ci pensa un po' di più che non se comprare una Volkswagen. Sì, poi tutta la filiale delle concessionarie, delle, dei rivenditori, che insomma non è sicuramente stimolata in questo momento. Bene, o meglio, staremo a vedere, però mi sembra chiaro che la partita si giochi su questi due fronti. Grazie anche a Andrea Malan del Sole 24 Ore, ed è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Da Sebastiano Berisoni l'auguro di una buona serata. Andrea, dopo il nostro GR, gli altri titoli oggi sul listino, perché ripeto, Banco Popolare molto bene, ma ci sono anche altri titoli che meritano un commento.